la radio. Sì, perfetto, non c'è nessun problema. Ok, andiamo buona merda. Sì, faccio proprio così, domani sto ritiro, allora che ce ne sono, le prendo io. Quattro piedi bianchi ce li ho io, non c'è problema. Quelli che ho usato io per il piano mio, come ho fatto il mio, sono neri. La sinfonia è nera, quindi. No, non voglio volere niente. E già regna. Vabbè, non fa niente, vengono arrivati. Vabbè, questa è bianca. Vabbè, qua c'è stata la sinfonia, è la fine del mondo, che. Mi l'ha inventata, che. Ha suicidata, che. Sì, è un pelle ci abbiamo, vogliamo pesci. Ce lo stavo buttando, non ci avevo più di lunghi perché l'avevo già fatta carbonata, una cosa del genere. E come piano d'appoggio da una parte usi il piano della cassettiera e fissato le viti là sotto, con gli angolari, e dall'altra parte usi i piedi come abbiamo fatto. È chiaro che viene una cosa fatta bene, no? Il lavoro, è uscito un bel lavoro. L'unica cosa che devo fare, adesso c'ho quell'altra lampada di sinistra, adesso la mi compro la roba corrente e mi arrivo anche l'altra, così ne ho due. Ma è ancora subito la roba corrente qua, certo, se non parli, di cui ho eliminato, c'avevo prima, di mettere le cose sotto la sinfonia. Gli attacchi dell'elementatoio ce l'ho sotto la scrivania, ce l'ho attaccato al muro con la presa, mi ha fatto l'elettricista lavoro, presa unica portata c'è un attacco unico, tipo una ciabatta, ma non è una ciabatta, sapete, e sono attaccati tutti i conservamenti, elementatori. Fatti, ma cosa costruivo qua? Diversamente, no? Questo panno. Il piano non è quella ciabatta con l'interruttore, di quelle lunghe, che ci stanno più preso, eliminati tutto quanto su Baradani in vari bisogno. Io ce l'ho così. Ci vuole l'interruttore generale per la radiofrana, se vuoi fare cose fatte bene. Le cose fatte bene ci vuole l'interruttore generale, come c'ho io, sotto la scrivania, dove ci sono tutte le masse. Fatto bene, salva vita. Io quando finisco di trasmettere, spengo gli alimentatori, spengo tutto e abbasso il salvavita. E già, è tutto isolato. E poi metto il commutatore generale delle antenne, quello c'è attaccato a muro. Quello il commutatore generale, come commuta tutta la radio, sulla T250. Capito? Quando io lo metto a zero, c'è un minuto, lo metto a zero in caso di fumo e di cosa, scarica lì. Non fa niente. E infatti faccio così, lo puro. Faccio proprio così, capito? Faccio così. E così e do la testa al toro. Faccio una cosa fatta bene. Diciamo ogni volta che c'è temporale, tempo brutto, di staccare antenne, lui io ho il piano, la faccio. Devo staccare un'antenna, poi faccio, poi. Allora ho usato questo sistema, dove come ho fatto la generale d'antenna, ma vado a attaccarlo, praticamente interrompe l'ingresso dell'antenna generale sulla radio. In caso di casino scarica lì, c'è un condensatore all'interno e scarica lì. Tu faccio così, forse, faccio proprio così, capito? Ma tu però non mi avrai mai verniciato la vedi? Sì, quanti anni ce l'ho quello smutivo fa? Mi pare che, ti ho detto, se mi ricordo bene, l'avevo comprato la prima fiera che sono andato. Niente, sto parlando, 10 anni fa. Alla prima, è proprio la prima fiera che sono andato, sa, 10 anni fa. E poi, non ricordo se l'ho usato, se ce l'avevo per bellezza, non ricordo, perché poi a me mi piacciono tante cose alla fine, poi mi stufo e metto dentro la cosa, il cassetto. Ti ho detto che ho 2 microfoni in più e non solo sono le radio, infatti pronto. Quindi o sono carbonati, sono mansarda, o sono dentro questo armadio in fondo, sicuramente, perché sono 2 microfoni di ISO, quindi potrebbero essere i microfoni dei 7B. Già finalmente, nel manco, mentre a me. E mi sto dicendo che io l'altro giorno stavo fluendo, ma io dico, stavando, no, ma fai tu. Cioè, che ti gira qua? Ho trovato una canale a pesca che aveva detto, ma lui per canale a pesca. No, ma non so, ma io non come lamentavo di questa canale a pesca qua, mi tocca a me pulisce. Come vedo lo scimano, ho fatto di un 4.000 scimano RX. Ma lui ha detto, è questa? Ma come la mettete? No, ma non so, ma è un fatto a me. Thank you. sul piano come ha fatto Giulio. Molto bello quel piano, un piano unico, molto robusto, perché non ha fatto robusto proprio per non imbarcarci, perché il peso dell'orario ti si può imbarcare. E quindi hai visto il lavoro che ho fatto. Ho avuto oggi dalle 3 fino a quando sei arrivato tu, avevo appena finito, perché ho pulito tutto, ho spostato anche sotto l'aspiratore, ho pulito tutto, devo stare tutto qua. Oggi passo al tavolo, pongo con la palma, faccio la cosa fatta bene, con il rossetto, tutto quanto, e vedo quando esce i cibi volanti, allora con il piede non sarà tanto che faccio tanto bene, no? C'è una cosa che volevo fare, buscare proprio il corpo sciatto, di quel campo sciatto bianco, lo attacco ai piedi e lo faccio il piano e lo sulla di nuda e metto tutto dietro lì. Manco il piede a parlare. Ok, non prendo il campo sciatto, è quello bianco. Il campo sciatto bianco sottile, un foglio. E non bisogna che c'ho tutti quei fili dietro, che c'è il computer, tipo le ciabatte, ciabattine. Ci metto quel foglio lì, il fascetto, appunto, ci metto il foglio, non ce la dico da occhi. Vabbè, ci vengono. E mi faccio proprio così, io mi dico, non misuri. La taragnano vicino alla piscina, me la faccio lavorare un foglio bianco, e lui riprende quei fogli. Già va bene, fra. Lo puoi anche fare. Non è un problema quello. Si può fare tranquillamente. Piano piano ci parli tutto. Sempre con la calma si fa tutto, capito? Pazienza. Con la pazienza, dice quello, ne va duro. Sto dicendo qua, quella bomboletta è uguale, identica, a quel colore là, uguale. Quale bomboletta? L'abbiamo presa assieme. È uguale, originale, il colore suo, uguale lì. Ma certo che uguale. E ma è rimasta, ce ne sarà, posso dire, ma la metà, dai. Ne la prendo un'altra, tanto mi serve. Ma in quale colore è uguale? E poi l'altra, perché devo fare ancora, devo finire ancora con Rosa, metto, come lui domani metto la cosa quando finisco tutto, così è fatto, è ok, e ora a posto anche quello, potenzia, rimane tutto, dice quello, piano piano, bisogna fare cose sempre con calma e con pazienza, forse no, non lo così. Sto benissimo, non perché stamattina un'ottima solita passeggiata, tranquilli senza problemi, poco traffico, poco bordello, già va bene. Voi c'è, non c'è domani neve, la stavo guardando su internet. Signore Camillo, così non mi ha fatto neanche. Oh, ma adesso stamattina mi sono svegliato e ho detto, carta, 8:30, carta mi andata a lavorare. Oggi verso oggi è domenica, non va a comare. Che ti stai parlando colpi? La vecchiaia è un casino, quando comincia a essere vecchio è così. Vecchiaia e coronia fa. Carità. Ui. Ma non sono riuscito neanche oggi a mettere in moto questa notte, lo vedi? Oggi la potevo mettere in moto, ma c'era troppo freddo, vero? Quando c'è freddo, bisogna lavare di fare la moto. Non è cosa scherzare, no? Cazzo, buffone, mica ci hanno fatto freddo. Minchia, questa mattina non siamo usciti, qui ci siamo lì a gara. Ci vanno le reci, che parla un pezzo di cascione, non ti guardo. Vanno i piedi, che non ti dico altro, congelati. Lo so, cosa devi fare. C'è il tempo suo fa, però, non la faccia bicarbonato. Se non vedo. Prima di non c'erano, stamattina c'erano 3 gradi, hanno le vicine, o 4 gradi. Allora, aperto non siamo usciti. Mi sa che i gradi erano quelli, non è che c'erano un po' a scappare. Via, aspetta, vado a fare una commissione veloce. Allora, tutti a fare piccolo. Fai, sono qua. Allora, Claudio. Io sono sempre qua. Ma ho fatto, tutto ho fatto. Ho fatto via tutto. Cerchi qualcosa la trovi, diversamente dovevi fare lo lockdown per cercare le chiavi, i pezzi, i motori, le cose. Adesso visto che ogni scaffale c'è il suo riferimento, quindi vai direttamente lì e prendi quello che ti serve. Perché l'Alpina, dov'è l'Alpina? Sì, c'è un quel buco, dove sarà nel cassetto, sarà, e non venne. E l'Alpina 32 ampere, io sarà nel cassetto e non venne. Allora io sto a comprare i pili, dopo la c'è in terra la pagina, solo per scaffali. Non quello male, ma l'organizzazione, dove c'è lui a dire a fare le cose. Allora non lascia al suo posto, custodite, perché quando un operaio va a prenderla, devo trovarla, non è che può perdere tempo a organizzarsi la macchina, la cassetta, o perché mancano le cose. Devo andare al suo posto, prenderla, con il client, e andare a fare il lavoro che ce la fa. Lascerà, è finito lo scopo, no? La cassetta mia già c'è il lucchetto, quindi non ci sono problemi. Thank you. sicuramente, sì. Ma minchia, è allucinante. Dicevo, zio, in 40 vedremo, c'è poco traffico stanotte in 40, ora è meglio, meglio in 80. Luca, cosa stai facendo? Cosa stai facendo, Luca? No, io che so, no, che no, vabbè, no. Qua siamo, qua. Anche noi siamo qua, tutti altri. Anche stasera, ma sono già le 10:20, fra un po'. Spendo tutto, me ne vado a nanna. Vedi che complicato è. Anch'io trappo, ma trappo, ma trappo. Ciao, bye. Ciao, Franco, ciao, cara, ci sentiamo domani, ciao.